America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York, Mario Platero. Janet Yellen, governatore della Federal Reserve, ieri c'è stata la riunione del Comitato Monetario della Banca Centrale Americana e un comunicato che, diciamo, non ha rassicurato i mercati. Perché? Perché la Fed ha tenuto la porta aperta per un aumento dei tassi di interesse a marzo. I mercati volevano che la chiudesse e questo, devo dire, ha avuto un impatto immediato sugli indici di borsa. Indici di borsa che ieri mattina a New York erano partiti al rialzo, dunque con un certo ottimismo. Subito dopo il comunicato, un'inversione di tendenza. Dow Jones ha perso l'1,38%, pensate, il Nasdaq il 2,18%, S&P 500 l'1,1%. Il Dow Jones comunque resta sotto quota 16.000, a una quarantina di punti da quota 16.000, ma pur sempre sotto quella quota psicologica che è piuttosto importante. La Fed, devo dire, ha indicato un leggero rallentamento dell'economia negli ultimi mesi dell'anno scorso e questo ha diminuito le probabilità che ci sia un aumento dei tassi a marzo. Queste probabilità sono calcolate dal mercato in modo molto tecnico, per cui, per dirvi, un mese fa c'era il 52% di probabilità che la Fed aumentasse a marzo, e dopodiché sono scese al 34%. E dopo il comunicato di ieri al 32%, però insomma questo 30% di probabilità che aumenti, come vi dicevo, non rassicura il mercato. Sul piano dell'inflazione la Fed sostiene che si continua a viaggiare ben al di sotto dell'obiettivo del 2% e su questo influisce naturalmente l'andamento dei prezzi energetici. I tassi restano comunque fra lo 0,25% e lo 0,50%, per cui stiamo comunque parlando di un livello storicamente molto molto molto basso. Megyn Kelly's really biased against me. Ecco, torniamo alla politica, alla copertina di questa settimana. 4 giorni dal voto dell'Iowa, Trump ha chiarito perché non parteciperà al dibattito di questa sera, e la ragione è che la Fox News ha chiesto a Megyn Kelly, la sua bestia nera, questa giornalista che lo aveva attaccato abbastanza ferocemente nel primo dibattito, di partecipare alle trasmissioni della serata. Secondo Trump, questa giornalista è ostile, non è imparziale, e dunque ha deciso, come avevo detto ieri, di non partecipare. Questo paradossalmente lo ha aiutato. Ogni mossa di Trump sembra aiutarlo, e Cruz ha detto, il senatore Cruz del Texas, il suo più diretto concorrente in Iowa, ha detto: beh, qui se Trump vince l'Iowa rischierà di essere inarrestabile. Ma oggi parliamo dei democratici, ce ne sono 3 in corsa: Hillary Clinton, l'ex First Lady, Bernie Sanders, socialista, governatore del Vermont, socialista, diciamo un esponente della sinistra del Partito Democratico, Martin O'Malley, ex sindaco di Baltimora, ex governatore del Maryland, però direi che ha zero chance di fare qualunque cosa. La battaglia fra i due, fra Clinton e Sanders, invece, è alquanto avvincente. Cominciamo dalla Clinton. I'm listening to you, I'm fighting for you, and with your support I'm going to deliver. Ecco, questo è uno spot con cui Hillary Clinton è partita al contrattacco in vista di questo appuntamento elettorale dell'Iowa. Uno spot molto interessante perché in un minuto dice tutto, racconta il suo programma, attacca i repubblicani e attacca in qualche modo Bernie Sanders. E allora cominciamo a ripercorrere questo suo spot, perché lei dice: qual è il compito più importante, allo stesso tempo più difficile per un presidente americano? Deve risolvere problemi grandi quanto il mondo e piccoli quanto il tuo tavolo da cucina. Questo è il suo lavoro ogni giorno. Dopodiché si vedono delle immagini, la First Lady circondata da bambini, la First Lady tra le macerie di Ground Zero quando era senatore dello Stato di New York, la First Lady in un incontro con Vladimir Putin e accanto al presidente Obama nella Situation Room quando era segretario di Stato. Insomma, un candidato alla presidenza che ha tutto quello che serve per fare questo lavoro. E questo è vero sulla carta. Io non credo che possa esserci qualcuno più preparato di Hillary Clinton per fare in questo momento il presidente degli Stati Uniti. È stato segretario di Stato, ha lavorato alla Casa Bianca col marito, tra l'altro ha lavorato al programma per la riforma sanitaria che Bill Clinton aveva lanciato all'inizio della sua amministrazione e che poi fallì clamorosamente. È stato senatore dello Stato di New York, tra l'altro come segretario di Stato ha incontrato tutti i principali leader mondiali, come li incontrò come ex First Lady degli Stati Uniti. Dunque sulla carta Hillary sembrerebbe essere il numero uno. Eppure c'è qualcosa che non funziona in questo candidato democratico. Non riesce ad avere quella sintonia con l'elettorato che invece riusciva ad avere in modo straordinario il marito. E questo le ha creato dei problemi, soprattutto a sinistra, dove un personaggio spontaneo come Bernie Sanders è riuscito a metterla sulla difensiva. I am proud to announce my candidacy for president of the United States. Ecco, vi ho fatto ascoltare il momento in cui lo scorso maggio Bernie Sanders ha annunciato a Burlington in Vermont la sua candidatura. Ha 73 anni, è nato a Brooklyn da una famiglia ebraica originaria della Polonia, aveva aderito da giovane al Liberty Union Party, che era un partito formalmente impegnato contro la guerra in Vietnam, ma che aveva delle connotazioni di sinistra socialista, cosa che in America in genere non è molto ben vista. Poi cominciò la carriera politica, divenne sindaco di Burlington nel 1981 e poi piano piano è andato avanti, è stato eletto deputato nel 1990 e dal 2006 è senatore, dunque ha una solida carriera politica alle sue spalle, ma è un politico locale. Chi mai avrebbe immaginato che un senatore del Vermont sconosciuto, attenzione perché Bernie Sanders è conosciuto nel Vermont, è conosciuto da coloro che seguono il Senato, ma è sconosciuto al grande pubblico americano, chi poteva immaginare che potesse in qualche modo mettere in difficoltà Hillary Clinton? C'è riuscito e questo naturalmente va tutto a suo vantaggio. Quali sono le situazioni adesso più o meno? Perché vi do dei sondaggi medi, non vi do gli ultimissimi sondaggi perché le medie secondo me sono più importanti. Hillary è in testa per i caucus dell'Iowa di lunedì prossimo, 48% contro il 39% di Sanders. In New Hampshire invece, che è un po' dove Sanders gioca in casa, perché il Vermont fa parte del cosiddetto New England, di cui fa parte anche il New Hampshire, Sanders è in testa col 60% delle preferenze, quindi potrebbe addirittura vincere davvero, e questo sarebbe un problema piuttosto serio per Hillary Clinton. The person who lives here has to solve problems as big as the world. È immaginabile una nomination di Sanders per il Partito Democratico? Sarebbe curiosa, perché Sanders in qualche modo è l'esatto opposto di Trump, sono due personaggi anomali rispetto alla politica americana, e secondo me questo dà un messaggio molto importante, uno che gli americani sono stanchi del vecchio modo di fare politica, che è un modo un po' scontato, un modo che segue determinate prassi molto politically correct, l'altro che l'America è agitata, è preoccupata, è stanca, si sente aggredita dal rischio di un attacco terroristico, si sente aggredita dalla Cina che sta crescendo economicamente e che è in grado di portare dei rischi allo stesso mercato degli Stati Uniti d'America. Dunque sono due risposte molto diverse, ma Sanders diventa anche un po' il simbolo in questo Partito Democratico di una protesta latente. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che non vive più tempi difficili, resta pur sempre la nuova frontiera. Potrete continuare a trovarli su america24.com, seguitemi su Twitter, @ Mario Platero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Sanders adora Simon & Garfunkel, che sono più o meno i suoi coetanei, sono dei settantenni, e adora soprattutto una canzone che fa suonare in continuazione i suoi comizi, America. Let us be lovers, we'll marry our fortunes together. Some real estate here in my bag, so we bought a pack of cigarettes and Mrs. Wagner pies and walked off to look for America. Kathy, I said as we boarded a Greyhound. Michigan seems like a dream to me now. It took me 4 days to hitchhike from Saginaw. I've come to look for America. Da New York è tutto. Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going.